giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Crisi di maggioranza, il terzo mandato non c'entra nulla, precisa il presidente Fedriga a Venezia per il Festival Italia delle Regioni. Per l'opposizione una situazione di incertezza istituzionale del tutto inspiegabile. Ospedale di Udine, 4 milioni e 800 mila euro di lavori per modernizzare e riorganizzare i reparti di nefrologia ed epatologia, già operativi nella loro nuova dimensione logistica, al quarto piano del padiglione 8. Dopo 6 anni d'attesa sono online i nuovi bandi ATER per la provincia di Trieste. Chi vuole presentare domanda di alloggio popolare ha tempo fino al 17 ottobre. Le graduatorie saranno pubblicate a febbraio del 2026. Gli effetti del cambiamento climatico sull'agricoltura, che deve affrontare il calo della piovosità, e sulla fauna ittica marina dovuti al riscaldamento delle acque, pesci scomparsi e nuove specie esotiche. Torna nei pub di Trieste Pint of Science, festa della divulgazione scientifica che quest'anno celebra i 10 anni di Scienza alla Spina. Per 3 serate la scienza sarà protagonista in 5 locali che ospiteranno le menti più brillanti della nostra scienza. Basket Pallacanestro Trieste giocherà la 3ª gara giovedì prossimo a Treviso contro Brescia. Respinto dal CONI infatti il ricorso presentato lo scorso 13 maggio. Gara 2 si disputerà stasera a Brescia. Ancora un cordiale buongiorno da Lara Zani ed Elisabetta Zaccolo in studio per la seconda edizione del nostro giornale radio, che ha la politica in apertura perché la crisi di maggioranza in regione tiene banco anche a livello nazionale. A innescarla un intervento del ministro Ciriani, sullo sfondo la questione del terzo mandato che, precisa il presidente Fedriga, con questa crisi non c'entra nulla. L'opposizione intanto va all'attacco. Il terzo mandato su questa cosa non c'entra nulla. È la posizione ufficiale di Fedriga, ribadita dallo stesso presidente dal Festival delle Regioni di Venezia, ma è anche la posizione su cui fanno quadrato alcuni degli assessori che ieri hanno rimesso le deleghe, 7 su 10. Tutti tranne quelli di Fratelli d'Italia, messe in minoranza dopo l'attacco del ministro Ciriani alla sanità. Si lavora navigando a vista, non sapendo che fine farà la legislatura. Una crisi fatta di dichiarazioni ufficiali, ma anche di incroci di tempi e di luoghi. L'intervista di Ciriani, casus belli, che esce sul Gazzettino all'indomani delle motivazioni della sentenza della Consulta sul no al terzo mandato in Campania. Roma, stamattina, dove il Consiglio dei Ministri potrebbe decidere di impugnare la legge trentina sul terzo mandato a Fugatti. Venezia, domani, l'incontro tra Meloni e Fedriga. Ci confronteremo su tutto, ha detto quest'ultimo. Nel frattempo, tutti gli altri a bocche cucite. Su chi abbia preso la palla al balzo per far cosa? Se Ciriani ad aprire la crisi di governo con la sanità come pretesto, oppure l'altra componente di maggioranza a prendere l'intervista come pretesto per aprirla, le opinioni sono contrastanti. C'è chi aspetta a commentare a dopo il Consiglio dei Ministri, segnale forse che la vera partita si gioca lontano dall'ospedale di Pordenone. Dalle opposizioni si parla di spettacolo indegno, di mercato delle vacche, di interessi personali contrastanti, per dirla con Massimo Moretuzzo del Patto per l'Autonomia, strategia per ottenere il terzo mandato per la segretaria regionale PD, Caterina Conti. Il secondo mandato infatti non si computerebbe in caso di dimissioni prima della metà della legislatura. Al di là dei calcoli politici, dice la coordinatrice regionale 5 Stelle, Elena Danielis, è indicativo che la miccia sia stata proprio l'operato dell'assessore Riccardi. La consigliera pentastellata Capozzi si chiede: se andassero fino in fondo, si presenterebbero divisi? Preoccupata per la futura paralisi dei lavori d'aula, la consigliera regionale Serena Pellegrino, Alleanza Verdi Sinistra. Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana, chiama le forze di opposizione a organizzarsi già adesso in un tavolo permanente di coalizione. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Restiamo a Udine, dove sono stati inaugurati i nuovi reparti di epatologia e nefrologia dell'ospedale, riorganizzati in un unico spazio, secondo gli standard moderni e anche in risposta a una loro crescente attività. 4 milioni e 800 mila euro di lavori per modernizzare e riorganizzare i reparti di nefrologia ed epatologia già operativi nella loro nuova dimensione logistica al quarto piano del padiglione 8 dell'ospedale di Udine. Per l'azienda sanitaria Friuli Centrale un nuovo passo nel suo percorso di rinnovamento, sottolinea inaugurandoli il direttore generale Caporale, dalla prima dialisi nel 67 alla trasformazione in reparto nel 78, al primo trapianto di rene nel 93, la struttura complessa di nefrologia, dialisi e trapianto di rene con 60.000 prestazioni ambulatoriali territoriali e circa 400 ricoveri ordinari all'anno, è divenuta un hub nefrologico regionale e l'unico centro trapianti di rene della regione e tra i primi 10 in Italia al traguardo dei suoi 1.364 trapianti, una media di 60 l'anno negli ultimi anni, quest'anno sono già 25, una decina anche da donatore vivente, la sua ultima frontiera. La sua nuova e più razionale logistica, che vede ora riuniti ambulatori e spazi di degenza, è funzionale alla crescente attività e consentirà di guardare al futuro con serenità e sicurezza di sviluppo, sottolinea il suo direttore Boscutti. Funzionali i nuovi spazi anche alla crescita esponenziale dell'attività dell'attiguo nuovo reparto di patologie e trapianti di fegato, ora riunito tutto su un unico piano, realtà che oggi tra visite ambulatoriali e ricoveri ordinari dei hospital viaggia sulle 4.500 prestazioni l'anno e 2.000 per i pazienti trapiantati. Questi ultimi in forte aumento hanno portato al record storico di 43 trapianti di fegato lo scorso anno, un centro di riferimento all'avanguardia anche rispetto alle nuove indicazioni oncologiche internazionali per i trapianti, che sta già applicando, ricorda il direttore Toniutto. Alla direzione da un anno anche della rete epatologica regionale, Toniutto spiega di aver già raggiunto intanto due importanti obiettivi messi a punto con i medici di medicina generale e con tutti i centri della rete per l'appropriatezza degli invii, sia sotto l'aspetto delle indicazioni cliniche che dell'urgenza. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo 6 anni l'ATER provinciale di Trieste ha pubblicato il nuovo attesissimo bando per gli alloggi popolari nei 6 comuni di competenza. I nuovi alloggi messi a concorso sono 110, la scadenza venerdì 17 ottobre. Sono online i nuovi bandi ATER per la provincia di Trieste, un bando per ogni comune. Chi vuole presentare domanda di alloggio popolare ha tempo fino al 17 ottobre. Le graduatorie saranno pubblicate a febbraio 2026. Si prevede un record di richieste questa volta, perché si abbassa da 5 a 2 il numero di anni consecutivi di residenza in Friuli Venezia Giulia. Il bando più inclusivo di sempre, dunque, che annulla il precedente. Quindi anche chi è già in graduatoria deve ripresentare la domanda e avrà per questo la precedenza rispetto ai nuovi iscritti. L'ISEE deve essere inferiore a 20.000 euro. I nuovi alloggi a disposizione sono 110, a cui se ne aggiungono circa 300 all'anno grazie all'intensa opera di ristrutturazione di appartamenti. Come ha spiegato il nuovo presidente ATER Daniele Mosetti in conferenza stampa questa mattina, il focus del suo mandato è proprio quello di rendere accessibili quanti più appartamenti ATER, e per far questo ha assunto 2 tecnici in più, incaricati proprio di efficientare il RIAT, cioè la messa a norma degli alloggi, e aumentare così l'andamento delle allocazioni. Dall'altra parte sono oltre 3.400 gli appartamenti ATER non affittabili, a fronte di circa 2.000 aventi diritto che restano esclusi dalle assegnazioni pur essendo in graduatoria. E lo stesso presidente ha parlato di emergenza abitativa nella provincia di Trieste, motivo per cui sta puntando ad aumentare la disponibilità di alloggi sfitti. Si parte dalle ristrutturazioni con budget inferiore ai 10.000 euro, poi quelli sotto i 30.000 e infine i lavori più impegnativi da 70.000 euro, dove spesso il problema è la presenza di amianto. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Via libera dalla Giunta Comunale di Gorizia al progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento del centro sociale polivalente. L'intento è quello di migliorare le condizioni di sicurezza di quello che è il punto di riferimento per i servizi sociali di Gorizia, nel rispetto delle normative vigenti, in modo da consentire il pieno svolgimento delle molteplici attività nell'edificio di Via Baiamonti in tutta sicurezza. L'intervento, inserito nel programma triennale dei lavori pubblici, prevede un quadro economico complessivo pari a 1.660.000 euro, cifra coperta per 1.580.000 dall'accensione di un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti. Eccoci alla pagina del tempo, il cielo variabile su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 19 gradi, a Udine, Gorizia e Pordenone 20, a Tarvisio, Tolmezzo 18 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 16 gradi e 5 decimi, a Sappada 16, sul Monte Lussari 10 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 8 e 5, a Lignano 19 gradi e 5 decimi, a Grado 18 e 5. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per le prossime ore. Cielo poco nuvoloso su pianura e costa, con venti di brezza in prevalenza variabile sulla zona montana, dove non si esclude qualche breve rovescio pomeridiano. In serata aumento della nuvolosità a partire da ovest. La protesta del comitato No Ovovia ritorna questa sera sotto il municipio a Trieste. La delibera sulla cabinovia non è stata inserita all'ordine del giorno nei lavori del Consiglio Comunale previsto per questo pomeriggio, ma il presidio si terrà comunque alle 19 ad aderire anche il PD. Era al volante della sua auto, ma la patente di guida gli era stata revocata 12 anni fa e non l'aveva mai più conseguita. Protagonista della vicenda è un cittadino udinese che è stato fermato per un normale controllo dalla polizia locale. L'uomo di 50 anni era stato fermato nella zona sud della città sabato scorso, anche se la notizia è stata diffusa soltanto oggi ed è stato sottoposto al controllo. Nei suoi confronti è stata inflitta una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro e il fermo amministrativo del veicolo. I temi dell'ambiente ora, il cambiamento climatico si vede anche negli effetti sulla fauna ittica nei mari della nostra regione. Buongiorno regione, si è parlato delle specie di pesci in declino nelle nostre acque e di quelle che stanno prendendo il loro posto, a volte anche a causa dell'intervento accidentale dell'uomo. La passera di mare è sempre più rara e quasi non si vede più la papalina. Intanto nel mare del Friuli Venezia Giulia sono arrivati nuovi pesci. C'è la laccia, detta anche sardina africana, tipica della Sicilia, o il pesce foglia, rarissimo fino a poco tempo fa. Il quadro della fauna ittica marina si modifica e le cause sono diverse. Il naturalista e zoologo Nicola Bressi. Abbiamo notevolissimi cambiamenti che sono dovuti principalmente a tre fattori. Forse quello più noto è il famoso fenomeno della sovrappesca, ovvero tendiamo a pescare un po' di più di quello che il mare riesce a darci, a produrci, perché siamo tanti e vogliamo mangiare bene. Però non è in realtà forse il problema maggiore. Il problema maggiore sono altri due: il clima, lo stiamo cambiando, e la temperatura delle acque. Acque più calde e più salate, e l'habitat per molti pesci non è più adatto. Nel nord Adriatico avevamo dei pesci che erano dei cosiddetti reliti glaciali, ovvero erano rimasti in Adriatico, che era un mare abbastanza freddo d'inverno, dai tempi delle glaciazioni, ad esempio la passera e la papalina. In questo quadro si aggiunge anche il problema delle specie aliene, cioè quelle che appartengono ad altri ambienti che sono state introdotte in via accidentale dall'essere umano. In natura non funziona come quella bella canzone che dice aggiungi un posto a tavola, no? Che c'è un amico in più. Normalmente se arriva qualcun altro a mangiare ci sono un altro o altri che devono alzarsi e andare via. E quindi tutte queste specie aliene fanno cambiare radicalmente la nostra fauna. Tra questi c'è il granchio blu, un problema per i pescatori che non ha ancora una soluzione definitiva. Diciamo che ci mettiamo un tampone col fatto che viene pescato, è un animale buono da mangiare, secondo gli americani addirittura prelibato. Speriamo che riesca a inibire un po' il suo impatto, come fanno molte specie aliene che quando arrivano sono distruttive, poi un po' calano dopo un inizio veramente tragico per quanto riguarda l'ecosistema. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Da oggi al 21 maggio torna nei pub di Trieste Pint of Science, festa della divulgazione scientifica, che quest'anno celebra i 10 anni di Scienza alla Spina. Per 3 serate la scienza sarà protagonista in 5 location che ospiteranno le menti più brillanti della scienza italiana. Tutti gli appuntamenti sul sito www.pintofscience.it. Il coordinatore di Trieste, Federico Gasparo, ci ha spiegato perché portare la scienza nei pub. La scienza nei pub arriva perché il festival si chiama Pint of Science ed è un festival che nasce in Inghilterra nel 2012 da 2 ricercatori inglesi che durante un open day si sono resi conto che c'era la necessità di coinvolgere il pubblico in modo più diretto e forse in una situazione più confortevole e che metteva meno in soggezione il pubblico, e hanno pensato di uscire dai loro laboratori e andare in posti che fossero più congeniali a questo modo di fare divulgazione. E quindi in Inghilterra il posto per eccellenza dove si fa convivialità è il pub. Poi nel corso del tempo ha preso piede un po' la manifestazione ed è approdata in vari paesi nel mondo fino ad arrivare alla 10ª edizione in Italia quest'anno e in altri 27 paesi contemporaneamente. In Italia saremo presenti in 26 città con più di 230 relatori. Quali saranno le tematiche di quest'anno? Allora, il festival di per sé copre un po' tutte le varie aree dove si sviluppano le ricerche, ma ho deciso di dividerli in 5 categorie. Una che riguarda la chimica, la fisica e l'astronomia, denominata Atom to Galaxies, una che viene definita Planet Earth, dove si parla di scienza della Terra, evoluzione, zoologia, ecologia, una dove si parla più di tecnologia e poi una dove si parla di neuroscienze, psicologia, e l'altra di scienze sociali. A Trieste quest'anno avremo appuntamenti su 3 di queste 5 tematiche, quindi saremo presenti addirittura in 3 dei 5 pub con Atom to Galaxy. Ad esempio si parlerà anche dell'impronta ecologica che fare scienza oggi costa usando dei supercomputer. Un pub dove si parlerà per tutte e 3 le giornate di ecologia, di economia circolare, e uno dove si parlerà di tecnologia, open science piuttosto che supercomputer. Torniamo ai temi ambientali. Per evitare il rischio che la madre abbandoni i propri piccoli, i cuccioli di capriolo e di cervo non vanno assolutamente toccati. La raccomandazione, rinnovata anche quest'anno, è delle guardie di Federcaccia. Nel mese di maggio si concentrano i parti, spiega il coordinatore regionale Salvatore Salerno, e purtroppo ci arrivano segnalazioni di disattenzione dei cittadini. L'invito dunque è a rispettare le regole. In questo periodo, nell'erba alta di un prato o nel fitto del bosco, può capitare di imbattersi in un cucciolo nato da poco, spiega Salerno, che non reagisce alla presenza dell'uomo e che può sembrare abbandonato, ma non è così. Gli animali stanno bene e nei primi giorni di vita questo comportamento istintivo li mette al riparo dal rischio di essere predati. Non si deve toccarli dunque, ma lasciarli dove sono, andandosene rapidamente. In caso di contatto, spiega Salerno, la madre, che si è allontanata ma solo temporaneamente, sente l'odore dell'uomo, non riconosce più il piccolo e lo abbandona. Un comportamento che ci può sembrare incomprensibile, ma che in realtà è un adattamento premiato dalla natura per la presenza di predatori. Inoltre, se si è in compagnia di un cane, è fondamentale tenerlo al guinzaglio. In presenza di segnali che qualcosa non va in esemplari di fauna selvatica, vale comunque in generale la regola di non toccarli mai e di contattare il Corpo Forestale Regionale al numero 800 96 1969. E ora lo sport, il calcio. Torniamo sulla sconfitta di ieri sera dell'Udinese, battuta a Torino per 2-0 dalla Juventus, ora a un passo dalla Champions League. A decidere la partita, 2 reti di Niko e Vlahovic nella ripresa. L'atteggiamento è quello giusto, lo dicono allenatore e giocatori, ma contro la Juventus non basta. Serve non commettere errori e magari provare ad essere più pericolosi, anche se le assenze, Lucca, Tovene e Bravo in attacco, non aiutano. 2 tiri in porta in 90 minuti per la squadra di Runjajc e tanta difesa. Muro che crolla dopo un'ora, premiando in pochi minuti la voglia di Champions della squadra di Tudor. Copione già scritto di un finale di campionato tutt'altro che esaltante per i friulani. Lo dicono i numeri che corrono paralleli alla delusione dei tifosi. 4 punti nelle ultime 9 giornate, 7 le sconfitte. Merito dell'Udinese, lo sottolinea il tecnico, non essere mai scesi sotto al 12° posto. Ora però bisogna già programmare la prossima stagione anche sul piano della crescita di squadra, prima dell'ultima con la Fiorentina. Per alcuni, Lucca e Solè, i più indicati, l'appuntamento per i saluti. Sentiamo Cabasele. Tutta la stagione abbiamo fatto dei piccoli errori che l'avversario faceva gol su quegli errori, quindi siamo una buona squadra, ma per diventare una squadra che può lottare per i primi 10 posti della classifica dobbiamo tagliare gli errori e essere più concreti nell'area avversario. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket nella massima serie, stasera Pallacanestro Trieste, dopo aver fallito la gara d'esordio nei play-off, è alla caccia della rivincita, sempre a Brescia per la gara 2. Palla a 2 alle 20:45. La gara 3, in programma il 22 maggio, si giocherà invece a Treviso. Questa la risposta dal CONI, che ha così respinto il ricorso della Pallacanestro Trieste. E con il basket è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Paolo Cassano e Caterina Cabrelli. Da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione, l'augurio di un buon pomeriggio. Il prossimo giornale radio in onda alle 15. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.